Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Presentando il libro di cui vogliamo parlare oggi a Salva Danaio, il collega del Sole 24 Ore Orazio Carabini qualche settimana fa ha scritto: poco più di un anno fa l'allora ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa si attirò gli strali del 99% degli italiani con una battuta provocatoria: per un cittadino pagare le tasse è bellissimo. Gli diedero del matto e il ministro si trovò in seria difficoltà anche all'interno della maggioranza di centrosinistra. In effetti la sua affermazione, continua Carabini, era monca. Se avesse detto: per un cittadino pagare le tasse sarebbe bellissimo se tutti le pagassero, se le aliquote fossero ragionevoli, se la pubblica amministrazione fosse efficiente e se la qualità dei servizi che riceve in cambio fosse elevata, tutti lo avrebbero applaudito. Forse non proprio tutti, ma almeno le persone di buona volontà. E ruota anche attorno a queste considerazioni il libro Il patto, cittadini e Stato, dal conflitto ad una nuova civiltà fiscale, paga meno chi paga tutto, scritto a quattro mani dal vice caporedattore del Sole 24 Ore Dino Pesole, che saluto. Dino, buongiorno e grazie di essere a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Grazie. Dino segue da sempre per il Sole 24 Ore tutte le dinamiche della finanza pubblica. Insieme a lui il libro è stato scritto da Francesco Piu, lunghissima esperienza nel mondo sindacale italiano, oggi responsabile dell'osservatorio sul sistema della comunicazione della CGIL, consigliere del CNEL. Piu, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Allora, il libro, tra l'altro, è molto interessante anche per molti capitoli di natura pratica, concentrati particolarmente nella seconda parte, in cui viene affrontato il delicatissimo e centrale tema dei diritti del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta di un vero manuale di autodifesa del cittadino, oltre che di una proposta di civilizzazione fiscale che i nostri interlocutori e i nostri autori stamattina ci spiegheranno. Però a noi, come sempre, piacerebbe sentire anche la vostra considerazione sul tema di stamattina. Quando, se vi è capitato, vi siete arrabbiati tanto con la pubblica amministrazione, con l'amministrazione fiscale? Tutti abbiamo quasi sempre l'impressione, a volte anche con un po' di qualunquismo, di versare tanto allo Stato e magari di non ricevere misura proporzionata dal punto di vista qualitativo, quantitativo, dal punto di vista dell'efficienza, i servizi che ci aspetteremo. Qual è allora la vostra percezione su questo argomento? Siete incappati in qualche disavventura con fisco e pubblica amministrazione? Come avete fatto valere i vostri diritti, come vi siete anche autotutelati? Raccontatecelo all'800240024, oppure se volete scriveteci al 349-238-6666. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, abbiamo anche estratto qualche brano di questo libro. Diamo un'occhiata anche alla borsa, che stamattina torna a scendere in maniera anche piuttosto pesante su tutti i fronti geografici del vecchio continente. Abbiamo un calo su Parigi che è del 2%, Francoforte perde il 2,43%, Londra perde l'1,21%, l'S&P MIBA Piazza Affari in questo momento è in calo del 2,20%. Un solo titolo positivo a Milano e Alleanza sta guadagnando lo 0,19%, e poi qualche titolo che invece ha il segno meno, perde un po' meno invece ovviamente dei peggiori: Terna meno 0,10%, Impregilo meno 0,23%, Lottomatica meno 0,29%, Parmalat meno 0,29%. Stamattina le vendite di nuovo tornano ad accanirsi su Seat, pagine gialle, meno 9 punti, Pirelli meno 5% dopo aver presentato il suo piano industriale ieri, in difficoltà ancora alcuni titoli del settore bancario, il Banco Popolare meno 4,60%, Unicredito meno 3%, abbiamo un calo di Saipem di 4,5 punti, Prismian meno 4%, stanno pesando ancora le indicazioni negative del bollettino centrale della banca, le indicazioni del bollettino della Banca Centrale Europea, del bollettino mensile, pesano anche probabilmente questi dati sui nuovi pignoramenti negli Stati Uniti di case, stanno pesando molto anche le numerose trimestrali che non raccontano di uno stato di salute delle società quotate molto buono. Stamattina è toccato a Renault, e quindi sul settore auto non spendiamo ulteriormente parole. A Total Fina, Pioneer dal Giappone ha fatto sapere che taglierà 10.000 posti di lavoro, e insomma siamo alle solite dati che ancora una volta in borsa si trasformano appunto in perdite piuttosto forti. Lasciamo però il mercato e andiamo invece al tema di questa mattina. Come vi anticipavo, oggi presentiamo il libro il patto cittadini e Stato dal conflitto ad una nuova civiltà fiscale con gli autori, il collega del Sole 24 Ore Dino Pesole e Francesco Pio. Comincerei subito con Dino, perché spulciandolo ovviamente io l'ho potuto fare abbastanza velocemente, non sono riuscita a leggerlo tutto attentamente, anche se la lettura è molto scorrevole, molto gradevole, questo va ammesso, anche se il tema non è poi di facile approccio per tutti, Dino, e forse proprio da questo vale la pena partire. Molto spesso si ha proprio una sorta di resistenza, a volte anche fisica, nel voler affrontare tutte le tematiche che riguardano lo Stato, il governo, sembra tutto complicato, anche quando in realtà si tratta di parlare di finanza, poi scopriamo che invece possiamo così interpretare le grandi tematiche della finanza e dell'economia italiana come se fossero banalmente anche le tematiche di casa nostra. Sì, è proprio così, Deborah, grazie per questo invito che ci consente anche di spiegare bene cosa effettivamente vogliamo dire con questo libro. È effettivamente così, perché il rapporto tra i cittadini e lo Stato è complicato, è complesso. Ogni giorno ognuno di noi, se va in un ufficio pubblico, si scontra con ritardi, inefficienze, eccesso di burocrazia. Però d'altro canto noi stessi cittadini, noi nel libro questo lo segnaliamo con una certa evidenza, non siamo affatto immuni da responsabilità, perché è anche un nostro problema quello di dover, come dire, acquisire maggiore coscienza dei nostri diritti. Ecco perché è opportuno conoscere, informarsi. Per questo noi abbiamo inserito in appendice al libro, come tu osservavi, una sorta di manuale che poi nient'altro è che una sintesi, diciamo, delle cose che ognuno di noi dovrebbe sapere se va in un ufficio pubblico. Ne dico una tanto per citare un esempio. Se noi andiamo in un ufficio pubblico e là ci viene chiesto, ad esempio, di esibire un documento, molto spesso questa è una richiesta illegittima, perché ci sono delle leggi che sono in vigore nel nostro paese da oltre 20 anni che prevedono che quello stesso documento debba essere acquisito dalla stessa amministrazione attraverso una richiesta diretta a un'altra amministrazione. E dunque è un percorso che dovrebbe essere agevole di colloquio tra le diverse amministrazioni che non avviene. Molto spesso noi andiamo lì, non lo sappiamo, e usciamo magari da quell'ufficio dicendo: vabbè, adesso dovrò fare io, dovrò fare una fila, un'altra, mettermi nel traffico. Insomma, questo è un esempio banale per dire che se noi non ci informiamo, da qui parte proprio il discorso della nuova civiltà fiscale. Deve essere più efficiente lo Stato, ma anche il cittadino deve informarsi di più, perché sennò, diciamo, i due corni del problema, il conflitto di cui parliamo noi, non riesce a sanarsi. Sostanzialmente questo è l'approccio di partenza. Tra l'altro non è un caso, Dino, che in alcune parti del vostro libro definiate la pubblica amministrazione, nonostante tutto il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni per velocizzarla, per snellirla, la chiamiate ancora il burosauro. Eh sì, perché purtroppo è così. C'è stato nella seconda metà degli anni 90 una intensa attività di riforma del nostro paese con le leggi Bassanini, e poi ne sono intervenute altre, ma diciamo che dall'inizio degli anni 90 che si, come dire, rincorrono norme su norme. Però molto spesso noi abbiamo, avendo fatto anche uno studio attento delle norme, abbiamo scoperto che in realtà molte misure sono state introdotte semplicemente per ribadire concetti e norme che erano state già varate e che tuttavia non erano mai state applicate. Cioè, noi abbiamo nel nostro paese un eccesso di leggi, mentre invece basterebbe cominciare a applicare quelle che ci sono. E non è anche un caso che questo accada, perché molto spesso il Parlamento, invece di dedicarsi, il Parlamento, il legislatore, il governo, invece di dedicarsi, come dire, all'applicazione concreta di misure già approvate, ha preferito seguire l'altra strada, che tutto sommato è più semplice, quella di varare nuove norme, che però, come dire, amplificano, ingigantiscono il complesso delle difficoltà e delle implicazioni burocratiche che tutto questo comporta, e alla fine, come dire, siamo arrivati a una situazione di conflitto permanente. Rallentano ulteriormente il carro, certo. Ecco, noi proponiamo una strada per uscirne. Ecco, la proposta consiste nella stipula di un vero e proprio patto fra l'amministrazione pubblica e fiscale e il contribuente. Francesco Pio, in che cosa consiste questo patto? Ma in questo fatto alle cose che ha detto Diro vorrei aggiungere una cosa. Attualmente la situazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione è frutto di un compromesso, diciamo, no? Dove i tre attori, che sono la politica, che continua a replicare leggi, ahimè non da 20 anni ma da 40, perché la prima legge a favore del cittadino del 68, la famosa legge 15, e da allora sono leggi che si rincorrono con altre leggi, ministri che naturalmente si fanno una discreta propaganda, e in questa maniera la politica, diciamo, si mette al sicuro. La burocrazia naturalmente non ha alcun interesse ad applicare le leggi che danno poteri al cittadino, che danno diritti al cittadino. E dal canto suo il cittadino, come è stato appena detto, c'ha questo problema, che è vittima, però insieme anche, come dire, è anche colpevole di questo compromesso. Anche perché mi viene, più mi scusi se la interrompo, una considerazione molto banale. Molto spesso, voglio dire, la pubblica amministrazione, quando parliamo anche dell'impiegato con il quale ci dobbiamo interfacciare, è comunque lui stesso in primo luogo un cittadino che forse ha bisogno del medesimo servizio, e magari anche quello potrebbe contribuire a rendere un po' più snella tutta la procedura se solo si mettesse anche dall'altra parte dello sportello, no? È troppo banale questa considerazione. No, non è affatto banale, assolutamente giusta. Il vero problema è che nell'esercizio delle proprie funzioni il burocrate, piccolo o grande che sia, mira a riprodurre lo stato di burocrazia, mira all'autoriproduzione del corpaccione burocratico, diciamo. Però insomma, in questo campo c'è il cittadino che accetta diritti, diciamo, pochi diritti, o comunque la non applicazione dei diritti di cui dispone, in cambio, diciamo, di un sistema di doveri relativo, insomma, quindi siamo molto elastici da questo punto di vista, e questo naturalmente crea un compromesso molto pericoloso. E infatti quasi che come a volte ci troviamo nella giustificazione di non voler pagare le tasse, di evadere, proprio perché dice tanto, insomma, in cambio non riceviamo un bel niente, un cane che si morde la coda, ma qua insomma prima o poi... No. Sul versante fiscale, adesso qui stiamo parlando, diciamo, dell'amministrazione in senso lato, sul campo fiscale la questione è ancora più specifica, nel senso che l'evasione fiscale viene considerata come una sorta di investimento. Si tenga conto che in Italia vengono fatti circa 500.000 controlli generalmente su una popolazione, su 48 milioni di soggetti fiscali, il che significa, facendo una semplice divisione, che un controllo tocca ogni 100 anni. E quindi evadere il fisco in questa situazione di deficitaria dei controlli e quindi di bassissima deterrenza, evadere il fisco diventa quasi un investimento. E allora non soffermiamoci su questo dato, sennò qua alimentiamo anche la tentazione da parte di qualcuno magari. C'è però chi invece il proprio ruolo di contribuente, di persona rispettosa di quanto il fisco ci chiede, lo rispetta scrupolosamente, poi si ritrova magari a dover versare un tributo in eccesso e di non poter trovare nessun tipo di interlocutore che ci aiuta magari a capire qual è la strada per ottenere il rimborso. Silvana da Roma, cosa le è successo? Buongiorno. Buongiorno. È successo ai miei genitori, ma curando io le loro cose, perché in Italia ci dimentichiamo che ci sono tante persone che non sono neanche in grado di essere informate su quali sono i loro diritti. I miei sono fortunati, li curo io. Quella volta è arrivata una cartella fattoriale, parliamo ancora di lire, era 1 milione. E i miei genitori, che sono super precisi, sono andati subito a pagarla. Poi mi sono resa conto, guardando bene questa cartella, che era sì intestata a mia madre, però il codice fiscale era sbagliato e il tributo non andava pagato. Con l'aiuto di una mia amica commercialista siamo riusciti alla fine a rintracciare diciamo l'esatto intestatario, la persona che doveva pagare questo importo. E non sono riuscita, con l'aiuto di nessuno, tantomeno dello Stato, a riavere indietro, perché non c'era niente da dimostrare, era palese. Infatti. E parliamo di 1 milione di lire, di due persone anziane. E in ogni caso volevo aggiungere una cosa che ha appena finito di dire il suo ospite. È vero, adesso mi sfugge il numero dei controlli che vengono fatti, Però questi controlli non sono neanche quelli, sono di meno, perché le stesse persone tutti gli anni, io per esempio ho appena ricevuto una notifica per un 740 presentato da mio marito regolarmente, sempre per la stessa cosa, un recupero di un 36%, sempre tutti gli anni noi veniamo sorteggiati per questa cosa, quindi quel numero di casi che vengono controllati è ancora più basso. Non funziona nulla, non è solo queste cose. O comunque Silvana, la sensazione è che i controlli vengano effettuati sempre sulle medesime persone, non ho capito l'obiezione rispetto a quest'ultima cosa che le capita. Lei dice vengo sempre... No, nel senso, io dico questo, non è che questi campioni cambiano, sono sempre gli stessi. Ah, ecco, perfetto. Questo volevo dire, perché per esempio noi tutti gli anni riceviamo questa bella notifica di andare a dimostrare che ciò che abbiamo detratto è veramente ciò che ci spettava e di portare i documenti. Che le spese anche fatte, questo, voglio dire, una volta si allegavano i documenti alla dichiarazione, abbiamo dovuto snellire tutto, ma con non l'autocertificazione prego, no, Silvana, ci chiedono questi documenti tutti gli anni con tutta la burocrazia che c'è dietro, vai di nuovo all'ufficio delle imposte, prendi un appuntamento, file chilometriche, è una cosa terribile. Silvana, la ringrazio molto, giro queste sue considerazioni, tra l'altro ci sono già tantissimi ascoltatori in attesa che vogliono raccontarci magari una circostanza particolare nella quale si sono ritrovati, però Dino Pesole, insomma, la nostra ascoltatrice molto agguerrita, molto consapevole anche, credo di aver capito, dei suoi diritti, sicuramente sarebbe una contribuente che potrebbe ricevere il bollino blu da contribuente totale, anche se si sente un po' vessata da tutti i controlli e non adeguatamente assistita nel caso in cui si ritrovi lei ad aver bisogno di un'assistenza da parte del fisco, non è riuscita ad ottenere questo rimborso, per esempio, di questo tributo pagato e non spettante, ecco. Certamente, la signora immagino possa essere iscritta d'ufficio in questa, come dire, lista di contribuenti che noi auspichiamo diventi sempre più estesa. In ogni caso, anche in questo caso specifico, occorre ricordare che noi stessi dobbiamo essere consapevoli di quello che il fisco deve fare quando ci scrive una cartella. Ad esempio le cartelle di pagamento, noi lo mettiamo nel nostro manuale, devono indicare l'ente che ha iscritto al ruolo l'addebito, la descrizione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la motivazione, le modalità per il pagamento. Molto spesso, qual è il problema? È che arriva una cartella di pagamento e sperando che non sia una cartella pazza, cioè emessa in modo un altro errato. Bel capitolo quello, tra l'altro, sì, esatto. Dino. E se arriva una cartella, come dire, tendenzialmente corretta dal punto di vista formale, molto spesso non ci si capisce nulla, perché ci sono, come dire, delle iscrizioni molto confuse. Invece le norme in vigore prevedono che le cartelle esattoriali siano motivate, siano chiare e che ci siano scritte ovunque tutte le, come dire, possibilità che il contribuente ha non solo di far valere le proprie ragioni, ma anche, come dire, di chiedere delle informazioni. Quindi qua si tratta di operare una decisa inversione di tendenza. Cioè, il fisco deve cambiare regime, deve essere più, diciamo, efficiente, meno avvestatorio, bisogna fare i controlli veri, non perdere le energie nel fare controlli formali che non servono a nulla, e però essere veramente al servizio del cittadino, cioè quando capitano queste cose deve esserci un funzionario pronto lì a dirci che strada dobbiamo prendere. Quindi a Silvana qualcuno che gli possa dire: guarda, per avere ragione di questo rimborso che ti spetta devi percorrere questa strada, così come qualcuno che gli spieghi il motivo per cui per la medesima situazione, per la medesima cosa ampiamente dimostrata da anni, riceve lo stesso tipo di sollecitazione da parte dell'amministrazione. A queste cose magari risponderemo adesso nella seconda parte di Salvadanaio, così come poi vorrò chiedere a Dino Pesole e Francesco Piu se hanno mandato e che risposte hanno avuto questo libro ai ministri Tremonti e Brunetta, soprattutto tanto impegnato in questo momento con la pubblica amministrazione per renderla sicuramente più efficiente. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, questa mattina vi stiamo presentando il libro Il patto cittadini e Stato, dal conflitto ad una nuova civiltà fiscale, tutto quello che attiene al nostro rapporto con la pubblica amministrazione, con l'amministrazione fiscale. Tra l'altro, in che cosa consiste questo patto? Lo abbiamo lanciato nella prima parte di Salvadanaio, ancora non abbiamo ben spiegato in che cosa consiste per l'appunto questo riconoscimento al cittadino che fa il proprio dovere, lo status appunto di contribuente totale. Allora direi di sentire questa parte del libro. Che cosa è realmente questa figura del contribuente totale, quali sono le sue caratteristiche, quali vantaggi potremmo ricavare dall'essere appunto contribuenti totali, nella speranza ovviamente, nell'auspicio che lo siamo tutti. Sentiamolo da questa parte del libro per poi tornare a chiacchierare con i due autori del testo, Dino Pesole e Francesco Piu. Il primo passo, da considerarsi come una significativa traduzione in pratica del patto tra Stato e cittadini, è che si affermi una nuova figura cui attribuire un visibile riconoscimento civico e sociale, il contribuente totale. Persona fisica o impresa, professionista, artigiano o commerciante, dipendente o pensionato, che con assoluta certezza adempia a tutti i suoi doveri fiscali e contributivi e che per questo può vantare un assoluto livello di trasparenza nei suoi comportamenti e obblighi nei confronti del fisco. Il contribuente totale, azionista del risanamento fiscale del paese, dovrebbe divenire il protagonista di un nuovo spazio, abitato da quanti abbiano scelto di collocarsi stabilmente sul versante della probità fiscale. La sua promozione dovrebbe essere sostenuta da una massiccia campagna di informazione, che punti all'effetto emulazione, sui ritorni di immagine e anche economici. Si può auspicare che nell'arco di qualche anno l'affermazione di questa figura, la sua diffusione e visibilità, possa far maturare almeno in un segmento dei contribuenti irregolari le condizioni per programmare un loro rientro nella norma. Anche se può sembrare utopistico, ci piace immaginare che la comparsa di questo simbolo e la sua diffusione possa invogliare alla partecipazione al circuito degli onesti, proprio in virtù di quel moltiplicatore sociale che oggi, al contrario, incentiva l'evasione. Infine, potrebbe cominciare a instaurarsi, andrebbe incoraggiata, la buona prassi di improntare i propri rapporti commerciali e professionali esclusivamente verso altri soggetti regolari e certificati come tali entro lo spazio dell'onestà fiscale. Ad esempio, tra i requisiti fondamentali delle ditte e dei fornitori che intrattengono rapporti con l'amministrazione pubblica, potrebbe essere inserita questa certificazione di assoluta trasparenza fiscale. Si tratta di segnali, prima di tutto. Insomma, le parti del libro che potevano essere lette sono sicuramente tante, perché come vi dicevo prima la lettura è assolutamente scorrevole e piacevole. Però Dino Pesole, il contribuente totale, azionista del risanamento fiscale del paese, è un'immagine molto interessante. Come azionista evidentemente il contribuente totale si aspetta qualche bel dividendo, ma intanto come individuarlo e come premiarlo? Beh, noi partiamo da questo presupposto. La situazione attuale vede un'evasione fiscale di proporzioni enormi. Cioè noi perdiamo almeno 100 miliardi l'anno di maggiori, insomma, di tasse che non entrano nelle casse dello Stato per effetto dell'evasione. E questo è un dato di partenza. Allora noi pensiamo che rispetto a questa situazione si possa effettivamente cambiare marcia e che a fronte, diciamo, di una recupero di efficienza della macchina pubblica e della macchina amministrativa, delle tasse in particolare, che faccia i veri controlli, si possa cominciare ad attuare una politica di redistribuzione, quindi del carico fiscale, cominciando a premiare quanti lo possono dimostrare. Io penso che i cittadini onesti che pagano onestamente le tasse siano molti, anche se l'evasione è un fenomeno molto diffuso. Allora la nostra proposta è quella di cominciare a dare un segnale nel senso della riduzione delle imposte, a cominciare da chi le tasse le paga tutte e lo può dimostrare. Noi facciamo anche, come dire, una proposta su questa dimostrazione. Esatto, quale potrebbe essere, Dino, il percorso? Potrebbe essere quello, come dire, di fare una semplice autocertificazione in dichiarazione dei redditi, attraverso la quale poi il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, tanto per capirci, poi attiva la procedura per la restituzione di un bonus. Può essere anche, diciamo, una restituzione che non sia prettamente fiscale, ma siano delle agevolazioni di altro tipo, che venga riconosciuta a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, attraverso, diciamo, un meccanismo lineare, semplice e trasparente. Quindi penso, riteniamo noi, che questa sia una strada percorribile, che oltretutto avrebbe un pregio, quella di cominciare ad attivare, come dire, non più il circuito della disonestà, cioè di quelli che comunque evadono e che addirittura nei confronti dei quali c'è una sorta di ammirazione nel nostro paese, no? Cioè noi non abbiamo ancora maturato il concetto che chi evade arreca un danno a tutti noi, all'intera collettività, no, anzi, molto spesso riteniamo l'evasore un furbo da imitare. Da emulare addirittura, sì. Allora, ci sono molti ascoltatori che vogliono dire la loro su questo argomento, abbiamo sicuramente toccato un nervo scoperto, allora sentirei, tra l'altro ricordando che abbiamo in sospeso anche qualche considerazione da spendere per la prima ascoltatrice che ci ha chiamato nella prima parte di Salva Danaio, sentirei anche Flavio da Trento, siccome il caso è simile, allora poi torniamo proprio sul fisco che non ci sente quando ci deve rimborsare qualcosa che abbiamo versato o pagato in eccesso. Flavio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Il mio caso è abbastanza simile. Negli anni '80 ho pagato per non dico per sbaglio, ma perché avevo teoricamente maggiorato le 12 milioni in più di tasse. Nel momento in cui la legge mi permetteva di ottenere il rimborso, ho fatto la richiesta e non sono mai riuscito a ottenerle di ritorno. Che percorso ha seguito, Flavio? Anche per capire se ha tentato la strada giusta. Ma sono andato all'ufficio imposte direttamente, certo. Una volta si chiamava ufficio imposte e mi sono fatto fare da loro tutto quanto. Man mano mi dicevano, ma forse l'anno prossimo, e un bel momento mi hanno detto, adesso paghiamo fino a 6.000 euro come massimo, e quelli che sono sopra i 6.000 euro vedremo l'anno prossimo. Sono passati i famosi, credo, me lo hanno detto dopo. Tra l'altro ci rientrava Flavio, mi pare di capire, data la cifra. Assolutamente sì, però non sono mai riuscito ad incassarli. Adesso sono passati 10 anni, mi hanno detto è inutile, è andato in prescrizione. Esatto. Va bene Flavio. Allora, Francesco Pio, tra l'altro lei ha lunga esperienza, dicevamo, anche nei massimi organismi sindacali del nostro paese, organismi sindacali che si avvalgono per l'assistenza fiscale contribuente dei CAF, che sono proprio, come dire, gli avamposti, no, di tutte le questioni che stiamo parlando questa mattina. Flavio è l'ascoltatrice di Roma e ne vedo tanti altri iscritti, ma insomma quando c'è da prendere si ha sempre la percezione ancora molto banale e qualunquista, però questa è, che quando lo Stato deve prendere ci trova immediatamente, quando ci deve restituire non si sa perché svanisce ogni tipo di assistenza possibile. A Flavio, l'ascoltatrice di Roma, che devono rientrare di qualcosa che hanno versato in più all'amministrazione a cui non spettava, che strade devono prendere? Ma intanto sono sorpreso di questo fatto della prescrizione, perché siccome l'ascoltatore si è rivolto più volte all'amministrazione, i termini dovrebbero essere stati interrotti. Interrotti, perché sennò salta tutto. Allora, due, vorrei suggerire un precedente che è di un certo interesse, e cioè una sentenza del giudice di pace di Mestre che, rispetto proprio a istanze, come dire, paragonabili a quelle che ho ascoltato, ha emesso una sentenza per una cartella esattoriale palesemente errata, quindi insomma siamo sempre dentro quel contesto, per cui ha condannato la pubblica amministrazione al risarcimento. Quindi ci sono varie, purtroppo tutte le norme di tutela dei contribuenti e degli utenti della pubblica amministrazione hanno in genere un vizio, e cioè quello di non essere coperti da sanzioni. E questo è il motivo per cui le amministrazioni non le applicano, perché tanto non sono sanzionate, non sono sanzionabili. E poi chissà, aggiungo più, quante situazioni non vengono denunciate perché magari riguardano importi piccoli per i quali i contribuenti dicono non vale neanche la pena che spendo tempo. Ecco. Esattamente, infatti nel contesto, nel libro, noi facciamo proprio una proposta, dopo 40 anni appunto di leggi che rincorrono altre leggi che vengono fatte continuamente, di fare una sorta di testo unico dei diritti dei cittadini coperto da tutte le sanzioni necessarie. Cioè, faccio un esempio. Allora, la norma stabilisce che tipicamente la durata di un procedimento amministrativo sia di 90 giorni. Deve essere chiaro che superata quella data dei 90 giorni, al cittadino spetta un rimborso. Quindi l'amministrazione deve essere sanzionata per forza, la sanzione è l'unico deterrente. Sanzioni, naturalmente la burocrazia vive tranquilla e ingrassa, invece in presenza di queste sanzioni, quindi la sfida che noi poniamo anche a Brunetta, che ha fatto degli interventi sulla pubblica amministrazione, è proprio questa, di ricomporre tutte le leggi che stabiliscono e comportano dei diritti dei cittadini e completare questa operazione in una sorta di testo unico, ponendo anche delle sanzioni. Senta, i due casi che abbiamo sentito, secondo lei una bella segnalazione al garante del contribuente, che poi magari spiegheremo che cos'è, la farebbe fare ai nostri ascoltatori? Sì. Perfetto, allora magari poi cerchiamo di spiegare anche questa via. Allora, è da più di un anno che sto lottando con l'INPS per la 13ª di mio padre, racconta Graziano. Dà fastidio, Luigi da Pavia, la presunzione di colpevolezza che il fisco assume spesso nei confronti dei cittadini. E poi ce ne sono altri che non riesco a leggere perché sono delle vicende talmente articolate che si spalmano su più messaggi, ma vedo che molti ascoltatori perdono tempo anche ai comandi di polizia municipale per dimostrare che la multa che è arrivata non è stata attribuita e comminata correttamente. E poi tanti altri messaggi, ce n'è anche uno divertente, io lo definisco così, di Vittorio, che ci provoca anche, ci dice: voglio vedere se avete il coraggio di leggerlo al signor Pio. Lo farò, Vittorio, glielo assicuro, perché non è che stiamo qua solo a fare pubblicità ad un libro, ma vi voglio dimostrare insomma di come anche direttamente i nostri interlocutori abbiano tutto l'interesse e anche il desiderio di mettersi in gioco sul tema che stiamo affrontando questa mattina. Nel frattempo vi racconto anche quello che è accaduto ad Alessandro da Como, anzi ce lo racconta lui stesso. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una cartella esattoriale da 46 centesimi. Esatto, una cartella esattoriale da 46 centesimi che mi è costata oltre 200 euro perché ho dovuto pagare i 46 centesimi perché avrei rubato allo Stato 46 centesimi di un versamento IVA. 200 euro di multa per questo errore più la spesa di notifica. Ovviamente chi fa ricorso per 46 centesimi di versamento? E in una cosa del genere, permettetemi, forse lo Stato faceva prima scrivere una bella lettera con scritto: caro contribuente, hai sbagliato, auto sanzionati, cioè nel senso versa il mancato. Se mi metti 200 euro, sinceramente, cioè per 46 centesimi poi... Non lo so, Alessandro, si poteva trovare magari un modo anche per applicarle, che ne so, ad una bolletta da pagare. Adesso ovviamente forse anch'io trago delle conclusioni un po' troppo banali, però per 46 centesimi forse effettivamente la come dire, tutta la pratica messa in piedi sarà costata chissà quanto di più, a parte la multa poi che le è toccata, che è ovviamente del tutto sproporzionata rispetto effettivamente all'errore della tassa, appunto, forse in difetto pagata. Dino Pesole, che ne pensi? Io penso ad esempio al costo che questa cartella da 46 centesimi ha prodotto anche in termini di impegno da parte di chi, funzionario, si è messo lì, ha perso del tempo, ha fatto due conti e dunque ha implicato e ha occupato il proprio lavoro per una cosa di questo tipo. Io penso, da questi esempi, che siamo ancora fondamentalmente lontani da una civiltà fiscale che è quella che poi ispira la nostra idea. Io penso però che proprio partendo da questi casi, che sono tutti molto significativi, ma ognuno di noi avrebbe da raccontarne chissà quanti, potremmo cominciare finalmente però a cercare, come dire, una strada per uscirne, perché sennò, diciamo, siamo in un vicolo cieco. Da un lato lo Stato e l'amministrazione fiscale considera i cittadini e i contribuenti come dei sudditi da versare, e dall'altro i cittadini e i contribuenti non fanno altro che cercare di difendersi, trovare scappatoie di ogni tipo, e questa però è, diciamo, una situazione senza via d'uscita. Certo. Io ritengo che una via d'uscita ci sia, perché se lo Stato e l'amministrazione finalmente cominciano, e possono farlo, noi lo spieghiamo come, cominciano ad approvare, a far funzionare le leggi che già ci sono, e dal canto suo il cittadino comincia a maturare una piena responsabilità dei propri diritti, quindi quando va in un ufficio deve pretendere di parlare col responsabile, deve dire: io sono portatore di un diritto in questo momento, non sono un suddito. Dino, ti interrompo su questo, perché a proposito proprio del dialogo che si instaura tra il contribuente, tra il cittadino e la pubblica amministrazione, qualche volta è un dialogo che poi, come dire, rimane solo così nell'aria. Enrico da Roma, credo che lei proprio su questo punto volesse intervenire, no? Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì, io in qualità di ex commercialista responsabile per 4 anni del contenzioso tributario voglio dire che oggi nel 2007, ancora tutt'oggi nel 2007, la legge sulla trasparenza pubblica amministrazione rimane disattesa, almeno per Roma, e gli uffici delle agenzie entrate danno sempre risposte verbali, è sempre difficile ottenere risposte scritte, comunque fare interpellanze scritte, e quando si riescono a fare le risposte sono sempre tardive, sempre, sempre. Grazie Enrico. Dino, ti ho interrotto così almeno puoi continuare sul filone che avevi intrapreso. Beh, infatti, ma questo diciamo fa parte del discorso che abbiamo fatto finora, cioè noi abbiamo, ci sono delle norme, delle leggi che prevedono che quando si va in un ufficio pubblico il responsabile che noi abbiamo davanti sia identificabile, cioè lui deve presentarsi con un cartellino, noi dobbiamo capire chi è, quindi le risposte l'amministrazione pubblica deve darle per iscritto. Francesco Piu ricordava entro quali termini si deve concludere un procedimento amministrativo, lo prevedono le leggi in vigore, quindi qua si tratta semplicemente di fare noi tutti cittadini una battaglia civile, perché credo che questi diritti dovremmo cominciare a farli valere. Anche perché ci sono delle situazioni limite poi, no? Perché adesso magari fino a questo momento è un discorso talmente serio, talmente importante, l'abbiamo forse a volte fatto sfociare così in una parentesi folcloristica. Ci sono però dei casi in cui se non ci si mette in regola con il fisco, qualora si intraprende una strada e si ritiene di essersi messi in regola, di aver assunto una posizione corretta, a volte invece escono delle situazioni, e comunque io a questo punto le chiamerei ritorsioni. Paola da Piacenza, che cosa le è successo? Perché vedo che qua la sua controversia col fisco è andata a finire piuttosto male. Sì, grazie di avermi fatto intervenire. A me è successo che avevo delle cartelle INPS pregresse da pagare, per carità lecitamente pretese, che ho tenuto volutamente perché stavo chiudendo la mia attività e avevo del credito di IVA da riscuotere. È successo che mi arriva questa cartella di pagamento a dicembre del 2007, io all'inizio del 2008 compenso questo credito di IVA direttamente con l'INPS, e ho sbagliato, per carità non è la modalità corretta, comunque pensavo di essere tra virgolette a posto, invece a settembre 2008 mi arriva questa atto di pignoramento direttamente in conto corrente che non ho assolutamente fatto in tempo a firmare, perché la mia raccomandata che è arrivata 6 giorni dopo con scritto guardate che ho già pagato con le varie ricevute, delle compensazioni, tutto quanto, è stata bellamente ignorata, mi hanno pignorato 3.000 euro dal conto corrente lasciandolo a zero. Io ho fatto tutte le dovute denunce ai carabinieri, tutto quanto, i carabinieri so che stanno indagando perché hanno chiamato la banca e tutto il resto, a tutt'ora non ho ricevuto ancora nessuna restituzione. Quando le è successo tutto questo, Paola? Mi è successo, mi hanno pignorato il giorno praticamente 6 settembre 2008. Quindi insomma una cosa recente. La ringrazio anche lei per la sua testimonianza. Purtroppo stiamo chiudendo, ci mancano un paio di minuti, per cui devo assegnare un minuto a Francesco Pio e uno a Dino Pesole. E tra l'altro, se vuole Pio naturalmente spendersi con una considerazione sul caso di Paola, però visto che l'ho promesso a Vittorio, le leggerò anche questo messaggio. Sicuramente interessante l'argomento, ma il CNEL, visto che quello ho citato, le fa il consigliere di questo organismo, Pio, ascoltatore era interessato a questa materia, quanto ci costa, quanto è il gettone di presenza dei componenti, quante proposte di legge ha presentato negli ultimi anni, quante sono state discusse e approvate. Per fare un patto bisogna mettersi in gioco, non lo devono fare solo gli altri. Pio, gliela lancio così. Allora, dunque, naturalmente per quanto riguarda le proposte di legge, il CNEL ha avanzato... Le devo chiedere anche di essere breve, purtroppo, che sì, stiamo chiudendo. Sì, di proposte di legge ne avanza, naturalmente bisogna essere in due, per cui non sempre il Parlamento... Le recepisce, le accoglie. Recepisce a livello. Per quanto riguarda i gettoni del CNEL, io direi che sono assolutamente non paragonabili con quelli della politica. Io posso dire quanto... No, non c'è bisogno, no, era solamente per dire, insomma, parlando, magari... Stiamo parlando di incarichi che sono, insomma, di rappresentanza, non sono... E non credo che il costo complessivo del CNEL sia esagerato. Comunque, se il... No, non ci interessa. Era solamente anche per dimostrare ai nostri ascoltatori che quando ritengono di inviare delle domande scomode, io non è che faccio fatica a girarle a degli interlocutori intelligenti. Non c'è problema. A Paola da Piacenza, in 10 secondi, ha subito un pignoramento di 3.000 euro sul conto per aver attivato forse una procedura non esattamente corretta, della quale però ha dimostrato la buona fede. Questo rientra tutto nell'ambito di questa semplificazione delle norme, della trasparenza delle norme, dei rapporti. rapporti, per esempio avere un rapporto diretto con il responsabile del procedimento amministrativo, che è diritto del cittadino previsto dalla legge, sarebbe interessante. Noi per esempio proponiamo addirittura che in tutti i carteggi della pubblica amministrazione ci sia la possibilità di contattare telefonicamente e personalmente il responsabile del procedimento amministrativo, invece di muoversi nel traffico delle città e andare agli sportelli dove non ti danno alcuna risposta. Devo chiudere. Chiudo con Dino Pesole. Presentate a Roma il vostro libro il 17 febbraio. Ci saranno anche Tremonti e Brunetta? 10 secondi di no. Tremonti e Brunetta hanno avuto il libro, lo stanno leggendo, probabilmente potrebbero auspicabilmente fare un salto. Adesso diciamo non sono previsti tra i relatori, ma naturalmente se vengono sono ben accenti. Grazie a Dino Pesole e a Francesco Pio, anche a Pio soprattutto, per aversi così con grande serenità risposta alla nostra ultima domanda. Devo lasciarvi, a domani.